Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie dell'invito. Ma grazie a lei o grazie a te, insomma, adesso sono un po' anche grazie impacciato. Va benissimo. Beh, io spesso, siccome siamo in anticipazione, no, di quella che sarà la conferenza stampa di oggi alle ore 11, oltretutto costretta, mi pare, online, l'abbiamo anche in frequenza ed è un'anticipazione per addolcire i protagonisti che sono ai microfoni e, come ho detto, in sveglia anticipata. Potrebbe essere un'occasione per ripassare i contenuti. Facciamo finta che sta interrogando un amico prima di un esame, no? Potrebbe essere anche questa la scusa per avere, sì, per avere il nostro motivo di dialogo, ma non mancheranno anche le idee per dir you. Intanto, come nasce questo progetto, Caterina? Ma diciamo che nasce un po' in seno ai tempi che stiamo vivendo ormai da un anno, nel senso tutti i lockdown, le quarantene, i coprifuoco stanno cambiando in modo drastico la nostra vita e anche il modo in cui lavorano le istituzioni. Quindi fin da marzo scorso come istituzione abbiamo pensato che la svolta digitale che stavano portando avanti tutti i musei del mondo non fosse abbastanza, nel senso che i progetti realizzati non erano davvero un'alternativa alla visita in persona al museo. Per questo si è pensato a un progetto che permettesse al pubblico di fruire un'opera d'arte tra le proprie mani, fisicamente a casa propria. Ovviamente non è come una visita in persona al museo, però permette comunque una fruizione intima del lavoro di un artista. Infatti Dear You nasce proprio anche come un'occasione per riflettere sull'intimità, che è uno spazio appunto che stiamo vivendo in modo molto più intenso in questo periodo appunto di quarantene e coprifuoco. Quindi Dear You usa infatti la comunicazione, la fruizione per la comunicazione, la fruizione dell'opera, la corrispondenza postale. Quindi si consiste, diciamo, in sei lettere che sono inviate tra metà marzo e fine maggio, e ognuna è pensata da un artista differente, la cui pratica è legata alla scrittura, alla poesia e alle pratiche performative. Quindi l'idea non era tanto di snaturare delle opere e farle diventare, diciamo, adattarle al formato della lettera, ma l'idea era quella di coinvolgere degli artisti che includono la scrittura e la pratica poetica nella propria ricerca e che ne fanno uno strumento efficace per parlare di temi, diciamo, più rilevanti della nostra contemporaneità. Certo, questo tipo di fruizione quindi in un momento particolare comporta, sì, l'aspetto ancora più intenso e intimo della fruizione dell'opera d'arte che ti arriva, tra l'altro anche questa è una bella novità, ma vi è anche poi la possibilità di espandere con questa modalità al di fuori di quella che è un'interazione anche fra chi riceve questi contenuti e di confronto, è la novità concreta, quindi pienamente d'accordo che l'online non basta, assolutamente, avere nuove idee è molto molto importante, per non dire fondamentale. Io poi sono legatissimo all'aspetto epistolare della lettera, sarà proprio una lettera, insomma, come sto pensando. Sì, sì, sì, sì, cioè in realtà dipende un po' dall'artista, ovviamente, sì, ma certo. Sarà una lettera dalla lettera scritta a mano a delle lettere che lasceranno il loro segno sulle nostre mani, a degli interventi più legati ai racconti, quindi alla produzione letteraria. Infatti molti degli artisti coinvolti sono di base scrittori, per cui infatti nella conferenza stampa di oggi ne presenterò il lavoro e spesso mi troverò a leggere dei pezzi dei loro libri, perché sono proprio alla base della loro ricerca, c'è, cioè, proprio la scrittura, no? E la convinzione che la parola abbia una sua materialità e certo. Sia davvero capace di trasformare nel momento in cui la si legge. Per cui infatti una cosa importante era proprio quella che queste lettere fossero dei messaggi fisici, che quindi la iniziare a vedere la parola scritta come qualcosa di sì, di materico, di concreto, certo, di concreto. È un processo che è mentale, magari sembra mentale, ma che è anche fisico e materico. Sì. A chi sono destinate queste missive? Dunque, il destinatario è un generico, quindi è il possibile lettore, il destinatario di queste lettere. E poi ovviamente in base all'artista questo possibile lettore verrà, ovviamente si traccerà una identità, no, al lettore, in quanto per esempio alcuni di loro lavorano molto con una riflessione sull'amore e l'erotismo come strumento di, diciamo, rivoluzione sociale e politica, per cui per esempio Giulia Crispiani lavora proprio su questa trasformazione del lettore in un soggetto desiderante, come a rendere consapevole chi legge di essere una persona capace di grande, di fervida immaginazione e grandi desideri, e quindi essere in grado di cambiare il mondo in cui sta vivendo. Quindi ogni artista darà un profilo diverso a questo lettore potenziale. Sì, e io ti invito, se puoi, a restare in diretta con noi per fare uno stacco musicale, perché parleremo anche di questi artisti coinvolti, oltre che di contenuti e di percorsi, anche di durata di questo invio. Intanto ribadisco il titolo del progetto, che è Dear You, è esattamente l'inizio di una missiva. Torneremo a parlarne tra pochissimo con la curatrice Caterina Molteni, qua in diretta telefonica con noi. Ti prego di attendere un attimo che facciamo uno stacco musicale e poi torniamo in diretta, ok? A fra poco. Pensiero. Saranno anche lettere d'amore, come già annunciato Caterina Molteni, in un aspetto, diciamo, concreto e carnale anche. Si parlerà di erotismo, mi par di capire, non so se ho anticipato o travisato un pochettino le tue parole in precedenza, Caterina. No, è giusto, si parlerà anche di erotismo, nel senso che due degli artisti in mostra, in particolare Giulia Crispiani e Ingo Nierman, ne fanno, diciamo, sono sostenitrici appunto di una riconsiderazione dell'amore e dell'erotismo come degli strumenti, diciamo, per sovvertire il l'ordine sociale, politico, opprimente che viviamo. Di sovrastruttura, certo. Sì, di sovrastruttura. In particolare Ingo Nierman è uno scrittore, docente tedesco, che dal 2008 cura una serie di libri che si chiamano Solutions, dove propone appunto riflessioni su tematiche attuali che affronta attraverso però la speculazione narrativa, per cui racconta praticamente delle storie, dei racconti. In particolare uno ha ispirato questo progetto che si chiama The Army of Love, quindi l'esercito dell'amore, dove appunto Ingo Nierman propone una ridistribuzione dell'amore e dell'erotismo per ogni classe sociale e ogni persona, includendo appunto disabili, anziani, e quindi c'è una osservazione della società dal punto di vista della distribuzione dell'amore che è molto interessante. Questo lavoro poi è diventato anche due lavori video che sono stati presentati in diverse istituzioni e quindi l'amore diventa, insomma, una delle possibili armi sia per un cambiamento personale sia che un cambiamento politico e sociale. Sì, poi si parla di lettere d'amore, no? Per cui tutto torna nell'aspetto che abbiamo un po' dimenticato, purtroppo. Io mai, perché è un aspetto di comunicazione per me bellissimo, e quando Silvia Tonelli mi ha dato questa possibilità ho detto lo facciamo subito in diretta se possiamo, perché veramente è un'idea curiosa, originale, particolare. E volevo chiederti una cosa: avranno inizio queste spedizioni? Allora, il progetto abbiamo un mese adesso, quindi da domani sarà possibile iscriversi a Dear You tramite il sito del Mambo, per cui sarà visibile in home page, si potrà, diciamo, seguire le indicazioni, e per un mese raccoglieremo indirizzi di postali delle persone che decideranno di iscriversi, e da metà marzo, quindi il 14 finisce la possibilità di iscriversi, e quindi nei giorni successivi invieremo la prima lettera. Ogni lettera verrà inviata ogni 2 settimane, quindi bello. Diciamo che iniziamo a metà marzo e finiamo verso la fine di maggio. E quindi da domani c'è la possibilità di iscriversi, ovviamente questo è l'aspetto online, se vogliamo, però è semplicemente è l'unico aspetto online. Esatto, è burocrazia, sì. Ma è dovuta, è per forza, da obtorto collo, certamente anche l'idea più come si può dire precisa di poter raccogliere. E tutto ciò sulla piattaforma o sul sito, lo ribadiamo? Sul sito del Mambo troverete appunto una pagina dedicata alla mostra di Review, dove ci sarà la possibilità di acquistare appunto l'iscrizione a un prezzo pieno e anche con un ridotto tramite appunto il pagamento con carta di credito. Se invece siete stranieri o comunque vivete su terre lontane dall'Italia, purtroppo appunto bisognerà seguire un altro iter, che sarà appunto un bonifico bancario, che viene appunto spiegato tutto sul sito in modo puntuale. Sì. Ci sono, appunto, sì, scusa se ti ho interrotto, ma quindi vi è la possibilità di acquistare anche, scusami, l'opera? Cioè o è l'opera già di per sé la missiva? Ma dunque la missiva è un'opera concepita per essere una lettera inviata a migliaia di persone, quindi diciamo che è una via di mezzo tra un'opera e una sua riproduzione, nel senso che ovviamente per esempio Dora Garcia, che diciamo è un po' l'artista di punta del progetto, perché ha rappresentato la Spagna alla Biennale di Venezia nel 2011, ha partecipato alle più grandi manifestazioni dell'arte contemporanea, per esempio scriverà una lettera a mano, e ovviamente non scriverà 1000 lettere a mano, ma saranno delle riproduzioni, ovviamente. Però l'idea è che siano ovviamente gli artisti sono stati invitati a concepire delle nuove opere, perché non sono non sono state adattate a questo formato, per cui sono da considerare delle opere pensate per essere riprodotte, diciamo, per il numero di spettatori che avrà la mostra. Sì, quindi allora probabilmente ti ho interrotta proprio mentre stavi annunciando il sito del Mambo. È sul sito del Mambo che è www.mambo-bologna.org. Tanto lo ribadiamo noi, perché posso dire che dopo la conferenza stampa che seguiremo, brani della conferenza stampa saranno poi rimbalzati nel contenitore culturale di Rachele Copparoni Minerva nella giornata di domani, e seguiremo da vicino appunto questo progetto per darne spazio. In conferenza stampa ci saranno Roberto Grandi, presidente istituzione di Bologna Musei, ovviamente Lorenzo Balbi, che è il responsabile area arte moderna e contemporanea dell'istituzione Bologna Musei, direttore artistico del Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna. Caterina Molteni qua in diretta con noi, curatrice del progetto. È un bel lavoro, insomma, è una bellissima idea. Ne sei soddisfatta, Caterina? Molto, sì, sono contenta. ci credo. Sono contenta, devo dire che è stata molto complessa da mettere su, diciamo, nel senso che sembra facile, ma non è facile mandare lettere alle persone, e soprattutto se sono in tutto il mondo, ecco. Diciamo che è un progetto ambizioso, perché cerca proprio anche di superare anche i confini geografici che oggi sono così regolamentati, quindi diciamo che speriamo appunto di avere adesione da tutte le parti del mondo, che comunque sono in qualche modo rappresentate dagli artisti in mostra, che sono prevalentemente internazionali e vengono appunto dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dall'Italia stessa, e quindi sono appunto dalla Germania, quindi sono, insomma, spero, e dalla Svizzera, spero che si possa in qualche modo diffondere questa mostra il più possibile. Poi ci tengo anche a dire che DIU nasce veramente dalla ricerca delle artiste e degli artisti coinvolti, nel senso che ogni sua sfaccettatura e ogni suo pensiero dipende dalle loro parole, i loro testi, i loro libri, che sono veramente ricchi di spunti interessanti, per cui questo può anche essere un'occasione per ricevere a casa un loro lavoro, ma soprattutto per iniziare a leggerli e proseguire poi la conoscenza, perché sono veramente dei validi testimoni del mondo in cui viviamo, e hanno dei pensieri e delle sensibilità uniche, sì, da assolutamente tenere in conto, ecco. Mi sembra, adesso sto azzardando, sono giovani tendenzialmente? Ma in realtà no, nel senso che Dora Garcia e Ingo Nirman sono un po' più grandi, nel senso sono tra i 50 e i 60 anni. Dei ragazzi! E poi ci sono la più giovane è dell'86, per cui comunque non abbiamo, diciamo, dopo gli altri sono tra i 30 e 40 anni, sì. Però sì, abbiamo cercato di avere una rosa di artisti che abbastanza differenziata, ma che fossero anche nomi di un certo valore, nel senso che appunto sono tutti artisti che proprio ieri sera, mentre preparavo il discorso per la conferenza stampa, mi rendevo conto ancora di più di quanto sono interessanti, ecco. Quindi infatti oggi durante la conferenza stampa leggerò delle loro dei pezzi dei loro libri, perché veramente è importante far capire al pubblico i toni, il modo in cui si parlerà in queste lettere, insomma, perché non saranno assolutamente soft, ma anzi saranno molto importanti nei messaggi che comunicheranno. Il progetto intende osservare l'intimità non solo come sofferta solitudine, già questa è una microsensazione molto forte, ma come luogo di una possibile vitale autodeterminazione. Quindi non è isolamento, è affatto, anzi ne dà la possibilità di espansione ulteriore. Il progetto intende osservare l'indagine introspettiva che il suo servizio come spazio di trasformazione, concependo l'identità come una dimensione in divenire, possibile fonte di importanti rivoluzioni politiche e sociali, ma anche emotive e sentimentali. E si può dire molto eterogenea, ma nello stesso tempo giustamente ambiziosa, che tende ad alzare l'asticella del nostro sentire, della nostra introspezione, attraverso il contenuto lettera, la modalità di distribuzione di tutto ciò. E quindi complimenti. Grazie, grazie perché avete dato questa possibilità non solamente per il pubblico ma anche per Radio Città Fujiko di anticipare con il Breakfast Club e con Minerva questa idea che sarà nel concreto da metà marzo, ma già da domani avete la possibilità di iscrivervi per ricevere queste missive. Che dire, Caterina, abbiamo detto tutto o quasi? Vogliamo aggiungere qualcosa? Ad esempio, chi ha collaborato per questo progetto? Ma devo assolutamente ringraziare le mie colleghe, in particolare Elisa Schiavina, e Elisa Maria Cerra e Silvia Tonelli dell'ufficio stampa, che sono anche impegnate nella possibilità di realizzare questo progetto, perché come ti dicevo è piuttosto complesso e soprattutto anche farlo come un'istituzione pubblica è ancora più complesso, più complicato. Quindi più complicato, sì. Quindi ci tengo a ringraziare le mie colleghe e anche soprattutto Lorenzo Balbi, Roberto Grandi e Maurizio Ferretti, diciamo i dirigenti della nostra istituzione, perché hanno creduto fin da subito a questo progetto e l'hanno sostenuto e l'hanno reso, insomma, hanno fatto in modo che si potesse realizzare. Sì. E in conclusione, scusa, dal cognome sei di Milano? Azzardo, sì, anche sì, forse okay. Anche dall'accento. No, no, dall'accento no, è che no, un po' conosco l'etimo dei cognomi. Io, sì, purtroppo, io purtroppo il mio Felsinio no, mi perdonerai. Vengo da anni di Torino, adesso Bologna, per cui sto perdendo il mio accento milanese, però sì, sono milanese. Da quanto tempo a Bologna? Da un anno, io sono arrivata proprio qualche settimana prima dell'inizio del primo lockdown, per cui in realtà appunto fin da subito abbiamo dovuto pensare con Lorenzo Balbi, di cui sono assistente, degli strumenti diversi, no? per fare programmazione museale, per cui il primo è stato il nuovo forno del pane, che è stato un modo per trasformare il museo da spazio espositivo a spazio di produzione tenendolo sempre vitale, e quindi questo progetto è un po' un rafforzamento anche di sì, queste scelte, cioè quelle di continuare a lavorare sulla fisicità e sulla fruizione dal vivo sulle varie funzioni del museo, nel senso che il museo non è solo appunto una visita dentro la collezione permanente, ma sono tante altre attività fatte per la comunità della città e in questo caso per Diryuda anche del mondo, ecco, quindi certo. Si può continuare a produrre cultura senza per forza appoggiarsi al digitale, ecco. E questa è una bellissima frase che hai detto, con l'idea di poter coinvolgere più persone possibili con un metodo non alternativo, ma con una crescita, un accrescimento e uno stimolo di fruizione per l'arte. Siamo giunti al termine. Io spero, ho l'illusione che questa mia chiacchierata, magari un po' disordinata, ti abbia anche aiutato a ripassare poi la conferenza che hai fra poche ore. Sì, assolutamente. Bene, sei stato molto d'aiuto, l'ho accettata soprattutto per questo. No, bene. Ti ringrazio e ci diamo appuntamento domani con Minerva, che probabilmente rimbalzerà i contenuti con brani della conferenza stampa che si tiene oggi alle ore 11. E intanto buona giornata, buon lavoro, grazie e complimenti ancora, Caterina. Grazie mille a voi. Buona giornata. Buona giornata, ciao. Ciao.